vita. E quando ciel, nei brevi istanti, prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, schiuso era l'uscio e la magion deserto. E dove ora sarà quell'angiol caro, colei che prima poté in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti, colei sì pur al cui modesto sguardo quasi spinto a virtù talor mi credo. Ella mi pur rapiva, e chi l'ardiva? Ma ne avrò vendetta. Lo chiede il pianto della mia correnti da quel ciglio, quando fra il dubbio e l'ansia del subito periglio dell'amor nostro memore, dell'amor nostro memore, né dei potea soccorrerti, cara fanciulla amata, ei che vorria con la